Capitolo 35. La mattina dopo, Elizabeth si svegliò in preda a quegli stessi pensieri, a quelle medesime riflessioni su cui aveva finalmente chiuso gli occhi. Non riusciva ancora a riaversi dalla scoperta di quanto era avvenuto. Le era impossibile pensare ad altro e totalmente incapace di dedicarsi a un'occupazione. Decise subito dopo la colazione di indugiarsi all'aria aperta facendo un po' di moto. Stava dirigendosi senz'altro verso il suo viale favorito, quando l'arrestò il ricordo del signor Darcy, che talvolta vi si recava egli pure, e invece di addentrarsi nel parco, svoltò per il sentiero che si allontanava dalla strada di cinta. Tuttavia, lo steccato del parco segnava ancora da un lato la linea di demarcazione. Poco dopo, ella passò da uno dei cancelli che davano accesso al fondo. Dopo aver passeggiato 2 o 3 volte su e giù lungo quel lato del sentiero, la bellezza della mattinata la indusse a fermarsi ai cancelletti e a guardare dentro nel parco. Le 5 settimane che aveva ormai trascorse nel Kent avevano portato un gran mutamento alla campagna e ad ogni giorno andava aumentando la verdura sugli alberi che mettono per primi le foglie. Stava per continuare la sua passeggiata quando, entro quella specie di boschetto che fiancheggiava il parco, intravide un signore che veniva alla sua volta. E nel timore che si trattasse del signor Darcy, volle tornare indietro immediatamente. Ma la persona che avanzava era ormai abbastanza vicina a lei per vederla e anzi, accelerato con intenzione il passo, pronunziò il nome di lei. Elisabetta aveva voltato le spalle, ma nell'udirsi chiamare, ancorché da una voce che era palesemente quella di Darcy, si diresse di nuovo verso il cancello. Nel frattempo, anche egli l'aveva raggiunto e, porgendole una lettera che la prese istintivamente, le disse con uno sguardo di altera compostezza: «È da un po' che passeggio nel boschetto nella speranza di incontrarla. Vuol farmi l'onore di leggere questa lettera?» E con un leggero inchino s'addentrò nuovamente fra le piante e presto fu fuori di vista. Senza ripromettersene piacere, ma spinta da vivissima curiosità, Elisabetta aprì la lettera e con sua crescente meraviglia scorse nella busta 2 fogli scritti da cima a fondo in caratteri minutissimi. Persino la busta ne era tutta coperta. Allora, proseguendo il suo andare per il viottolo, cominciò a leggerla. Era datata da Rosings alle 8 di mattina ed era del seguente tenore: «Quando riceverà questa lettera, signorina, non si lasci prendere dal timore che essa contenga una ripetizione di quei sentimenti o un rinnovo di quelle profferte che ieri sera le riuscirono tanto sgraditi. Scrivo senza alcuna intenzione di far del male a lei o di umiliare me stesso, indugiandomi ad esprimere dei voti che per la felicità di entrambi non saranno mai abbastanza presto dimenticati. E lo sforzo che il formulare questa lettera, non meno che di leggerla, deve costare, avrebbe potuto essere risparmiato se il mio carattere non esigesse che venisse scritta e letta. Ella vorrà perciò perdonare la libertà con la quale richiedo la sua attenzione. So che i suoi sentimenti me la concederanno malvolentieri, ma mi appello al suo senso di giustizia. Ieri sera lei mi ha accusato di aver recato 2 offese di ben diversa natura, non meno che di ben differente portata. La prima, che senza tener conto dei sentimenti delle 2 parti vi abbia staccato il signor Bingley da sua sorella, e l'altra, che donata del suo buon diritto, sprezzante dell'onore e del sentimento di umanità, gli abbia distrutto la fortuna che dovevano toccare al signor Wickham, facendo svanire ogni sua prospettiva per l'avvenire. L'aver ripudiato volontariamente e alla lettera il compagno della mia giovinezza, il riconosciuto beniamino di mio padre, un giovane che all'infuori del nostro patrocinio non aveva altro appoggio e che era stato allevato nella certezza di potersene valere, sarebbe una tale crudeltà, in paragone alla quale l'aver separato 2 giovani, il cui affetto databa da poche settimane soltanto, apparirebbe cosa da nulla. Ma dalla severità di quel biasimo che mi fu così largamente dispensato ieri sera, voglio sperare di venir sollevato in avvenire dopo la lettura del seguente resoconto delle mie azioni e dei loro moventi. Se, nella spiegazione di questi, che è dovuta anche a me stesso, mi verrò a trovare nella necessità di esporre sentimenti che riusciranno offensivi per lei, non posso che chiedergliene perdono. Ma debbo ubbidire a tale necessità e lo spingere oltre alle mie scuse sarebbe assurdo. Non mi trovavo ancora da molto tempo nel Herefordshire quando, insieme con altri, mi avvidi che Bingley preferiva la sua sorella maggiore a qualunque altra signorina della contrada. Ma fu soltanto la sera del ballo a Netherfield che cominciai a temere in lui un serio attaccamento. Già molte volte prima l'avevo visto innamorato. quel ballo, mentre avevo l'onore di danzare con lei, venni per la prima volta informato da un'osservazione casuale di Sir William Lucas che le attenzioni di Bingley per sua sorella avevano fatto sorgere in tutti la speranza di un loro matrimonio. Egli ne parlò, anzi, come di un avvenimento sicuro, del quale rimaneva da stabilire soltanto la data. Da quell'istante io sorvegliai attentamente il contegno del mio amico e mi accorsi allora che la sua parzialità per la signorina Bennet andava al di là di quanto avessi mai riscontrato in lui. Osservai pure sua sorella. Il suo sguardo, i suoi modi erano aperti, lieti, attraenti come sempre, ma non mostravano sintomi di un'inclinazione particolare e da quanto ebbi modo di studiare quella sera rimasi persuaso che ella accettava bensì volentieri le attenzioni di lui, senza peraltro sollecitarle né parteciparvisi. Se su questo punto non è lei che si sbaglia, vuol dire che sarò caduto io in errore. La qualcosa è forse resa più probabile della maggior conoscenza che lei ha di sua sorella. Se è così, se io mi sono lasciato fuorviare da un simile errore al punto da procurarle della pena, il suo risentimento non è stato irragionevole. Ma non mi farò scrupolo di asserire che la serenità di contegno e di aspetto in sua sorella fu tale che avrebbe potuto inculcare all'osservatore più acuto il convincimento che, per quanto amabile fosse la sua indole, non era così facile toccare il suo cuore. Che io fossi desideroso di credere alla sua indifferenza è cosa sicura, ma oso dire che nelle mie ricerche, nelle mie decisioni, io non mi lascio solitamente influenzare da speranze o timori. Non la credetti indifferente perché mi augurassi che lo fosse, ma la ritenni tale per un'imparziale persuasione, con la stessa sincerità con cui la ragione me lo faceva desiderare. Le mie obiezioni per quel matrimonio non erano soltanto quelle che, come ebbi a confessare ieri sera, unicamente la forza prorompente della passione poteva indurmi a trascurare nel caso mio. L'imparentarsi in basso non poteva essere un così gran male per il mio amico come per me. Ma v'erano altri motivi di contrarietà, motivi che, sebbene tuttora resistenti e in pari grado, in entrambi i casi io mi ero sforzato di dimenticare perché non mi si paravano immediatamente dinanzi. È dopo accennare a questi motivi, anche se brevemente. La posizione sociale della famiglia di sua madre, ancorché di per sé discutibile, non era nulla in confronto alla totale mancanza di correttezza così spesso, quasi costantemente dimostrata da lei e dalle sue tre figlie minori, talvolta persino da suo padre, mi perdoni. Mi duole di offenderla. Ma della sua pena per i difetti dei suoi più stretti congiunti e del dispiacere causatole da questa mia elencazione, si lasci confortare pensando che l'essersi lei e la sua sorella maggiore comportate in tal guisa da sfuggire alla benché minima parte di tali critiche, è per loro un elogio unanimemente concesso non meno che un atto d'omaggio al senno e al carattere di entrambe. Aggiungerò soltanto che da quel che accadde quella sera, la mia opinione su tutte queste persone venne confermata e fu incoraggiato in me il proposito di salvaguardare il mio amico da quella che io stimavo un'infelicissima unione, proposito dal quale già prima mi ero lasciato indurre. Il giorno dopo, come lei certamente ricorderà, egli lasciò Netherfield diretto a Londra con l'intenzione di far presto ritorno. Giova ora spiegare la parte che io sostenni. Oltre che in me un senso di inquietudine, sarà destato anche nelle sorelle di lui. La concordanza del nostro sentire non tardò a manifestarsi e, ugualmente consapevoli di non dover perdere tempo nel distaccare il loro fratello, risolvemmo poco dopo di raggiungerlo nell'indugio a Londra. Vi andammo, difatti, e qui io mi addossai prontamente il compito di far presente al mio amico i danni certi di una simile scelta. Glieli descrissi, sottolineandoli calorosamente. Tuttavia, per quanto queste rimostranze possano aver scosso o differito la sua decisione, non credo che sarebbero valse in ultima analisi ad impedire il matrimonio, se non fossero state assecondate dalla certezza che io non esitai a ispirargli dell'indifferenza di sua sorella. Egli aveva creduto dapprima che la ricambiasse il suo affetto con un sentimento sincero, se non pari al suo, ma Bingley è per natura molto modesto e dà più credito al mio giudizio che al proprio. Non mi fu quindi affatto difficile convincerlo che si era ingannato. Una volta raggiunta quella convinzione, dissuaderlo dal far ritorno nello Herefordshire fu questione di momento. Non posso rimproverarmi per aver fatto tutto ciò. C'è un solo aspetto della mia vita condotta in questa faccenda al quale non ripenso con soddisfazione. Vale a dire l'aver io accettato di ricorrere a sotterfugi per celargli che sua sorella si trovava nella capitale. Lo sapevo e la cosa era nota anche alla signorina Bingley, ma il fratello lo ignora ancora oggi. È forse probabile che avrebbero potuto vedersi senza pericolose conseguenze, ma non mi sembrava che il sentimento fosse lui abbastanza smorzato da permettergli di rivederla senza alcuna apprensione. Fu Forse questa simulazione, questo segreto, non furono degni di me. Mi sono ricorso tuttavia e l'ho fatto per il meglio. Non ho altro da dire su questo argomento, né altre scuse da offrire. Se ho ferito i sentimenti di sua sorella, l'ho fatto inconsapevolmente e sebbene i motivi che mi hanno guidato possano molto naturalmente sembrarle insufficienti, io non mi sono ancora deciso a condannarli. Per quanto riguarda quell'altra più grave accusa di aver recato ingiurie al signor Wickham, posso confutarla soltanto esponendole per intero i suoi rapporti con la mia famiglia. Sono all'oscuro delle accuse specifiche che egli mi muove, ma sulla verità di quanto sto per narrare sono in grado di invocare più di un testimonio di indubbia attendibilità. Il signor Wickham è figlio di una rispettabilissima persona che tenne per molti anni l'amministrazione di tutte le tenute di Pemberley e la cui eccellente condotta nel disimpegno delle sue mansioni incoraggiò mio padre, come era naturale, ad essergli utile. Per questo la sua benevolenza fu largamente concessa a George Wickham, che fu suo figlioccio. Mio padre lo mantenne agli studi e più tardi a Cambridge, validissimo aiuto poiché il padre suo, sempre nelle strettezze che gli sperperi della moglie, non sarebbe stato in grado di dargli un'educazione da galantuomo. Mio padre non soltanto teneva a sé la compagnia di quel giovane, sempre seducente di modi, ma nutriva anche di lui altissima stima e sperando che la carriera ecclesiastica sarebbe stata la sua vocazione, intese provvedere per lui in questo senso. Quanto a me, molti, molti anni ormai sono trascorsi da che incominciai ad avere di lui una ben diversa opinione. L'inclinazione al vizio e la mancanza di ogni principio che egli si preoccupò di nascondere al suo miglior amico, non potevano sfuggire all'osservazione di un giovane quasi suo coetaneo, che aveva modo di vederlo in momenti in cui egli non si sorvegliava, cosa che non era consentita a mio padre. Anche qui sono costretto a farle del male, fino a che punto solo lei può dirlo. Ma quali che possano essere i sentimenti ispiratele del signor Wickham, il sospettarne la natura non deve trattenermi da rivelare a lei il suo vero carattere, anzi, me ne aggiunge motivo. Il mio ottimo padre morì circa 5 anni or sono e il suo affetto per il signor Wickham fu così costante fino all'ultimo che nel suo testamento mi raccomandò in modo particolare di aiutarlo a farsi strada nella professione che avrebbe scelta e se avesse ricevuto gli ordini, desiderava che un beneficio familiare gli fosse assegnato non appena resosi vacante. Inoltre vi era per lui un legato di 1.000 sterline. Il padre di George Wickham non sopravvisse a lungo al mio e entro 6 mesi da questi avvenimenti. Il signor Wickham mi scrisse per informarmi che, avendo finito col decidere di non prendere gli ordini sacri, egli sperava che io non stimassi ragionevole da parte sua aspettarsi un vantaggio pecuniario più immediato, in luogo dei vantaggi dei quali non poteva più beneficiare. Aggiungeva che aveva una mezza intenzione di studiare legge ed io dovevo rendermi conto che l'interesse di un migliaio di sterline sarebbe stato a questo scopo aiuto del tutto insufficiente. Desiderai ritenerlo sincero più che non lo credessi veramente. Comunque, fui subito pronto ad accedere alla sua proposta. Sapevo che il signor Wickham non avrebbe potuto diventare pastore, la faccenda fu perciò subito liquidata. Egli rinunziò a qualunque diritto ad essere appoggiato nella carriera ecclesiastica qualora avesse avuta la possibilità di usufruirne ed accettò in cambio 3.000 sterline. Ormai ogni rapporto fra noi sembrava interrotto. Avevo di lui troppo scarsa opinione per invitarlo a Pemberley o per accettare la sua compagnia in città. Credo che abitasse per lo più a Londra, ma il suo studiar legge era tutta una finzione. Libero ormai da qualsiasi controllo, la sua era una vita di ozio e di dissipazione. Per circa 3 anni ebbi scarse notizie di lui, ma alla morte del titolare del beneficio che gli era stato destinato, egli si rivolse nuovamente a me per lettera, sollecitando una presentazione. Le sue condizioni mi assicurava, e non avevo fatica a crederlo, erano pessime. Aveva trovato nel diritto uno studio per nulla proficuo ed era ormai fermamente deciso a prendere gli ordini se soltanto io avessi voluto proporlo per il beneficio in questione, cosa che confidava. Non era quasi da mettere in dubbio, poiché gli risultava per certo che io non avevo altri a cui concederlo e non potevo aver dimenticato le intenzioni del mio venerato genitore. Non credo che lei mi rimprovererà per essermi rifiutato di esaudire tale preghiera o per aver opposto resistenza ad ogni rinnovarsi di essa. Il suo rancore fu in proporzione delle angustie in cui versava ed egli si mostrò senza dubbio altrettanto violento nello sparlarle di me con gli altri come nelle rimostranze mosse a me stesso. Dopo questi fatti lasciamo cadere ogni apparenza di rapporto fra noi. come abbia vissuto, non so. Tuttavia, l'estate scorsa mi dovetti accorgere della sua presenza nel modo più doloroso. Debbo ora far cenno a una circostanza che vorrei poter dimenticare io stesso e che nessun impegno meno grave dell'attuale mi indurrebbe mai a rivelare ad anima viva. Detto questo, non ho più alcun dubbio sulla sua segretezza. Mia sorella minore di me, di oltre 10 anni, fu affidata alla tutela del nipote di mia madre, colonnello Fitzwilliam, e alla mia. Circa un anno fa lasciò la scuola e le si dette modo di vivere a Londra. L'estate scorsa, con la signora che si occupava dell'andamento della casa, si recò a Ramsgate. Quivi convenne che il signor Wickham, indubbiamente per determinato proposito, già che risultò esservi stata fra lui e la signora Young, sul carattere della quale ci eravamo ben tristemente ingannati, una conoscenza precedente, e con la connivenza e l'aiuto di costei, riuscì ad ingraziarsi a tal segno Georgiana, il cui tenero cuore aveva mantenuto vivo il ricordo della benevolenza che egli le aveva dimostrato bambina, da indurla a persuadersi di essere innamorata di lui e consentire a una fuga. Ella non aveva allora che 15 anni, ciò che devo valere a sua discolpa, e dopo aver rivelato la sua imprudenza, sono lieto di aggiungere che fu lei stessa a mettermene al corrente. Li raggiunsi improvvisamente un giorno o due prima della loro progettata fuga, e fu allora che Georgiana, che non poteva neppure ammettere di addolorare e di recare offesa a un fratello da lei venerato quasi come un padre, mi confessò ogni cosa. Lei può immaginare quale sia stato allora il mio stato d'animo e come io abbia reagito. Il rispetto al buon nome di mia sorella e i suoi sentimenti mi trattennero dal fare uno scandalo. Scrissi pertanto al signor Wickham, che lasciò immediatamente quei luoghi, e naturalmente la signora Young venne licenziata. Scopo precipuo del signor Wickham era, non v'è dubbio, il patrimonio di mia sorella, che ammonta a 30.000 sterline. Ma non posso impedirmi di credere che la speranza di vendicarsi di me l'avesse fortemente tentato. Allora la sua vendetta sarebbe stata davvero completa. Questa, signorina, è una narrazione fedele di tutte le circostanze in cui ci siamo ritrovati ad aver che fare insieme. E a meno che lei non voglia respingerla perché è falsa da capo a fondo, vorrà però assolvermi d'ora innanzi dall'imputazione di crudeltà nei riguardi del signor Wickham. Non so in che modo, con quali raggiri egli sia riuscito a mettersi in buona luce presso di lei, ma forse non c'è da stupirsi del suo successo. Ignara come lei era di ogni cosa che ci riguardasse. Scoprirlo non era in sua facoltà e sospettarlo non era certamente nella sua natura. Ella si meraviglierà forse che tutto questo io non gliel'abbia detto ieri sera, ma non ero in quel momento abbastanza padrone di me stesso per sapere che cosa potevo o dovevo rivelare. Per la verità di quanto ho qui sopra riferito, mi appello in modo particolare alla testimonianza del colonnello Fitzwilliam, il quale, per la stretta parentela che ci unisce la nostra costante intimità e ancor più, per essere uno degli esecutori testamentari di mio padre, è stato inevitabilmente informato di ogni particolare di questi avvenimenti. Se la sua versione per me dovesse privare d'ogni valore le mie asserzioni, la medesima ragione non potrà impedirle di riporre fiducia in mio cugino, e onde le sia offerta la possibilità di consultarlo, cercherò di trovare l'occasione di porre questa lettera nelle sue mani nel corso della mattina. Voglio aggiungere soltanto che iddio la benedica. Fitzwilliam Darcy. Capitolo 36. Se Elizabeth, quando il signor Darcy le aveva dato la lettera, non si aspettava di leggervi un rinnovo delle sue profferte, non se n'era d'altra parte affatto immaginata il contenuto, ma questo essendo tale ci si può facilmente immaginare con quanta ansia percorresse lo scritto e a quante contrastanti emozioni si abbandonasse. Il suo stato d'animo durante quella lettura non è facile definire. Dapprima provò grande stupore quando si rese conto che gli stimava di potersi giustificare, fermamente convinta com'era che egli non potesse aver spiegazioni da offrire all'infuori di quelle che un giusto senso di vergogna lo obbligava a celare. Con forte prevenzione contro tutto quello che potesse dirle, cominciò a leggere il resoconto di quanto era accaduto a Netherfield. Leggeva con una tale avidità che le lasciava appena modo di comprendere. Per l'impazienza di sapere che cosa le avrebbe rivelato la frase successiva, non riusciva ad afferrare il significato di quella che le stava dinanzi agli occhi. Che egli avesse davvero creduto all'insensibilità di sua sorella, risolvette senz'altro che fosse falso e la sua spiegazione delle positive e gravissime riserve al matrimonio La indispettirono troppo per lasciare il desiderio di rendergli giustizia. Non esprimeva rimpianto per quel che aveva fatto con sua piena soddisfazione. Lo stile non era contrito, ma altero. Era tutto orgoglio e arroganza. Però, quando a questo argomento tenne dietro il rapporto sul signor Wickham, quando Elizabeth lesse con attenzione che si andava facendo sempre più desta, l'esposizione di fatti che severi erano destinati a sconvolgere ogni opinione nutrita sul valore di quell'uomo e che palesavano una preoccupante somiglianza con la storia da lui stesso riferita, provò sentimenti ancor più acuti e più difficili da definire. Si sentì sopraffare dalla sorpresa, dall'apprensione, dalla paura persino. Non avrebbe voluto prestar credito a nulla, esclamando di volta in volta: "Questo deve essere falso, questo non può essere, questa è una grossolana menzogna." E quando ebbe terminato la lettera, senza peraltro chiarirsi a dovere di quanto dicevano le ultime 2 pagine, ripose frettolosamente lo scritto, proponendosi di non tenerne conto, di non volerlo guardare mai più. In tale stato di turbamento, coi pensieri che non riuscivano a fermarsi su nulla, continuò la sua passeggiata, ma inutilmente. Mezzo minuto dopo, eccola a spiegare nuovamente i fogli e, facendo il possibile per padroneggiarsi, riprendere il mortificante esame di tutto quanto concerneva Wickham, controllandosi quanto bastava per penetrare il significato di ogni frase. Il racconto dei suoi rapporti con la famiglia di Pemberley coincideva perfettamente con quanto aveva lui stesso riferito e la generosità del defunto signor Darcy, della quale non aveva riconosciuto prima tutta la larghezza, si accordava parimenti con le sue parole. Fin qui una versione confermava l'altra, ma giunta al passo del testamento la differenza era grande. Era ancor vivo nella sua memoria quanto Wickham aveva detto del beneficio e nel rievocare le sue precise parole non seppe sottrarsi all'impressione che ci fosse o da una parte o dall'altra patente falsità. Per qualche istante, anzi, si lusingò di pensare che i suoi desideri non avevano errato. Tuttavia, dopo aver letto e riletto con la più viva attenzione i particolari immediatamente susseguenti circa l'abbandono di ogni pretesa al beneficio da parte di Wickham, il quale aveva ricevuto in cambio la ragguardevole somma di 3.000 sterline, di nuovo si sentì costretto ad esitare. Posò la lettera, soppesò ogni circostanza con ciò che ella chiamava imparzialità, vagliò la veridicità di ogni asserzione, ma con scarso risultato. Non c'erano che affermazioni da ambo le parti. Riprese nuovamente a leggere, ma ogni rigo le dimostrava più chiaramente che la vicenda, che a parer suo nessun espediente sarebbe valso a rappresentare in modo da rendere la condotta del signor Darcy meno che infame, stava per prendere una piega che doveva farlo risultare irreprensibile in tutto il suo svolgimento. La prodigalità e in genere la dissipazione che egli non si faceva scrupolo di mettere a carico del signor Wickham la urtarono profondamente e da tanto più in quanto non avrebbe saputo recar una prova contraria. Non aveva mai sentito parlare di lui prima della sua entrata nella milizia del Shire, nel quale si era arruolato, indottovi dal giovane che, incontrandolo casualmente in città, aveva rinnovato con lui una vaga conoscenza. Del suo precedente tenor di vita nulla era stato risaputo nello Herefordshire all'infuori di ciò che egli stesso aveva raccontato. Quanto al suo vero carattere, anche se ella avesse avuto modo di informarsene, non aveva mai sentito il desiderio di andarne a fondo. Il suo viso, la sua voce, i suoi modi l'avevano subito definito in possesso di ogni virtù. Cercò di ricordarsi qualche esempio di bontà, qualche tratto preciso di rettitudine o di generosità che valesse a redimerlo dagli attacchi del signor Darcy, o che quantomeno, con la superiorità della virtù, volesse riscattarlo da quegli errori casuali, come ella si sforzava di considerare ciò che il signor Darcy aveva invece definito come parecchi anni di esistenza oziosa e di vizio. Ma nessun ricordo del genere la soccorse. Se lo vedeva lì, dinanzi agli occhi, con tutto il suo fascino di modi e di tratto, ma non riusciva a rammentarsi alcunché di più sostanzialmente positivo dell'approvazione generale del vicinato e la considerazione che le sue arti di uomo di mondo gli avevano cattivato al reggimento. Dopo essersi soffermata un buon momento su questo punto, continuò la lettura. Ahimè, il racconto che seguiva delle sue mire sulla signorina Darcy trovava qualche conferma in quel che si era svolto soltanto la mattina dianzi fra lei e il colonnello Fitzwilliam. E infine, Per la verità di ogni particolare, veniva rimandata allo stesso colonnello Fitzwilliam, sulla cui lealtà non aveva motivo di sollevare dubbi e dal quale era già stato informato in precedenza dello stretto legame che lo univa a tutti gli interessi del cugino. In un primo tempo aveva quasi deciso di rivolgersi a lui, ma poi si trattenne, imbarazzato da una richiesta di quel genere, e finì con lo scartare del tutto quel proposito, convinta che il signor Darcy non avrebbe mai arrischiato quella proposta, se non si fosse sentito più che sicuro dell'appoggio del cugino. Si ricordava con esattezza tutta la conversazione che si era svolta fra Wickham e lei la prima sera in casa Phillips. Molte sue espressioni le erano ancora vive nella memoria. Ora soltanto fu colpita dalla sconvenienza dimostrata nell'aprirsi su siffatti argomenti con un estraneo e si meravigliò che le fosse sfuggita prima d'allora. Si rese conto dell'indelicatezza con cui si era messo in mostra, dell'incoerenza fra le sue affermazioni e la sua condotta. Si rammentò che si era vantato di non aver paura di vedere il signor Darcy, che il signor Darcy avrebbe potuto lasciare quei luoghi se gli fosse piaciuto, ma che lui sarebbe rimasto sul campo. Eppure, soltanto una settimana dopo, aveva evitato di trovarsi al ballo di Netherfield. Si ricordò pure che prima della partenza dei signori di Netherfield, egli non aveva raccontato la sua storia ad altri che a lei, ma che, una volta partiti loro, la cosa era stata discussa ovunque e che allora non aveva mostrato scrupoli né riserve nel denigrare il carattere del signor Darcy, benché avesse asserito con lei che il rispetto per il padre le avrebbe ogni ora impedito di diffamare il figlio. Come le appariva diverso ormai tutto ciò che lo riguardava. Adesso la sua corte e la signorina King non era altro che la conseguenza di mire esclusivamente odiosamente venali, e il fatto che la sostanza di lui fosse modesta non stava più a provare la moderazione dei suoi desideri, sebbene la sua avidità nell'attaccarsi a qualunque cosa. Ora il contegno che aveva tenuto con lei, Elizabeth, non poteva più avere giustificazione possibile. O si era ingannato sulla sua dote, o aveva voluto soddisfare la propria vanità, incoraggiando la preferenza che la credeva di avergli molto imprudentemente dimostrato. Tutto ciò che militava ancora in suo favore andò così perdendo terreno, e come ulteriore giustificazione del signor Darcy non poté, a meno di ammettere che il signor Bingley, interrogato da Jane, aveva molto tempo addietro, affermato la completa irreprensibilità di lui in tutta la faccenda, che per quanto superbi e costanti i suoi modi, mai in tutto il corso della loro conoscenza, conoscenza che da ultimo li aveva fatti incontrare parecchio e l'aveva resa un pochino familiare con le sue maniere, aveva scorto qualcosa che tradisse in lui una mancanza di principi e di dirittura, qualcosa che lo rivelasse uomo di costumi irreligiosi o immorali, che nella cerca dei suoi congiunti egli era stimato ed apprezzato, che persino Wickham gli aveva riconosciuto dei meriti come fratello e che lei stessa l'aveva sentito spesso parlare di sua sorella con così gran tenerezza da rivelare in lui una capacità al sentimento, che se davvero le sue azioni fossero state quali le aveva descritte Wickham, una così crassa violazione di ogni diritto non avrebbe potuto restar celata al mondo, e che l'amicizia fra un uomo capace di tanto e un uomo di cuore come il signor Bingley era incomprensibile. Si sentì piena di vergogna per se stessa. Né a Darcy né a Wickham poteva più pensare senza sentire di essere stata cieca, parziale, prevenuta, assurda. Come ho agito ignobilmente, io che andavo orgogliosa del mio discernimento, io che mi vantavo della mia abilità, che ho spesso sdegnato il generoso candore di mia sorella e che mi compiacevo di un'inutile o biasimevole diffidenza. È davvero una scoperta umiliante, tuttavia, come mi sta bene questa umiliazione? Non avrei potuto essere più disperatamente cieca se fossi stata innamorata, ma è stata la vanità, non l'amore, che mi ha perduta. Lusingata dalla preferenza dell'uno e offesa dalla negligenza dell'altro, fin dall'inizio della nostra conoscenza, ho coltivato il pregiudizio e l'ignoranza, scacciando la ragione per quel che concerneva entrambi. Fino a questo momento non mi ero mai conosciuta. Da lei a Jane, da Jane a Bingley, i suoi pensieri si susseguirono in modo da farle presto ricordare che la spiegazione che il signor Darcy aveva offerto in quel caso le era sembrata affatto insufficiente, e la rilesse. Ben diverso fu l'effetto prodotto dalla seconda lettura. Come poteva negare credito alle sue affermazioni in un caso, quando era stata obbligata a concederglielo nell'altro? Egli dichiarava di non aver nutrito il minimo sospetto del sentimento di sua sorella, ed ella non poteva a meno di ricordare qual era sempre stata l'opinione di Charlotte. Ne poteva negare la giustezza della descrizione che egli faceva di Jane. Sentiva che i sentimenti di Jane, benché ardenti, si manifestavano poco e che quell'aria e quel tono costantemente soddisfatti non di frequente si univano a una grande sensibilità. Quando giunse a quel passo della lettera, in cui si faceva cenno alla sua famiglia in termini di così umiliante e tuttavia così meritato rimprovero, un profondo senso di vergogna la invase. L'esattezza delle accuse la feriva con troppa forza perché potesse tentare di negarle, e i fatti a cui alludeva, in modo particolare, occorsi al ballo di Netherfield e venuti a confermare tutta la sua precedente disapprovazione, non avevano certo colpito lui meno di lei. Non le sfuggì l'elogio fatto a lei, a sua sorella. Valse a confortarla, ma non a consolarla del disprezzo che tutto il resto della famiglia si era attirato. E mentre si andava accorgendo che la delusione di Jane era stata in realtà opera dei suoi congiunti più prossimi, rifletté sul danno materiale che quel contegno sconveniente aveva certo recato al buon nome di entrambe, e sentì un avvilimento quale mai aveva provato fino ad allora. Dopo aver errato 2 ore per il viottolo, abbandonatosi a ogni sorta di riflessioni, rievocato episodi, stabilendo probabilità e adattando se stessa, per quanto possibile, a un cambiamento così rapido e così essenziale, la stanchezza e il ricordo della sua lunga assenza le fecero finalmente volgere i passi verso casa, ed entrò nel presbiterio desiderosa di apparire gioconda come di consueto e con la decisione di allontanare dei pensieri che l'avrebbero certo resa poco idonea alla conversazione. Le fu detto subito che da Rosings entrambi i signori erano venuti a far visita durante la sua assenza. Il signor Darcy, soltanto per qualche minuto, per accomiatarsi, ma il colonnello Fitzwilliam era rimasto con loro almeno un'ora, sperando che la tornasse e quasi deciso a inseguirla nella sua passeggiata finché l'avesse trovata. Elizabeth non poté far altro che simulare il dispiacere per non averlo veduto. In realtà se ne rallegrava. Ormai il colonnello Fitzwilliam non la interessava più. Non sapeva pensare che alla lettera.